da lì incomincia un'altra cosa che io ovviamente temevo, infatti credo che ne è una rappresentazione fedele il mio primo interrogatorio, laddove addirittura ho mentito pur di cercare di non alzare il livello di quello che era la mia testimonianza di fronte a questi giudici, però questo si è verificato, sono stato giudicato da una serie di media come inattendibile, come mitomane, robe varie, per cui deve rendersi conto come ogni volta tutto quello che questi signori vengono ad anticiparmi a casa si verifica. Sì. Quest'altra persona, lei l'aveva già vista, la conosceva già? Sì, la conoscevo già, era stata anche la stessa che mi era venuto, per modo di dire, tra virgolette, accudire nel periodo della mia detenzione domiciliare, dandomi giusti consigli. Era quello che mi aveva assicurato che quella famosa SIM, quella contenente i numeri del signor Franco, quel famoso foglio di carta dove erano indicate le azioni politici per 1.300.000, quel famoso foglio di Berlusconi mi aveva assicurato che non si sarebbe mai trovato, di stare tranquillo nel 2006. Cioè, non preoccuparti, questo materiale al tuo interrogatorio non ti verrà contestato. Non ti verrà chiesto mai di trattative, non ti verrà mai chiesto di niente, così si è avverato. Capite bene le paure e anche i condizionamenti che una persona normale, perché si ritrova sempre questi soggetti lì pronti a condizionarti ogni tua scelta. Unico tra i figli indagati rinviato a giudizio, gli altri archiviati perché non conoscevano, no, tranne mio fratello, quello che visita a Milano, che non è stato neanche coinvolto, che non conoscevano la provenienza del denaro. Precisi segnali mirati a farmi capire che il silenzio pagava. Lei ha fatto riferimento prima alla rivista, comandò sia quello del barbiere che riguarda Lo Verde, ma poi anche quello del signor Franco. Partiamo da quella del signor Franco. Quella del signor Franco avviene nel momento in cui con mio padre si parlava di questo soggetto, vedevo come questo soggetto determinava tutto, era stato presente in quello che erano le stragi, era stato lì presente a consigliare, a dire a mio padre che non era il caso di fare questo libro che stavamo facendo, che non era il caso di mettere in su questo materiale, che tutto sicuramente non sarebbe stato una bella cosa, non sarebbe stato interpretato quasi come una vendetta post mortem di mio padre, quasi a consigliare di non voler scrivere quel libro che poi invece io, diciamo, dopo la sua morte ho voluto scrivere a tutti i costi. E già da lì i primi consigli, ma lasci perdere, ma non scriva. Che rivista era dove lei aveva visto questo viso del signor Franco? Questo tipo di indicazione non gliele posso dare, è un viso che rassomigliava molto e difatti, come ho detto, la magistratura, mio padre stesso, si è meravigliato, per cui credo bisogna andarci cauti, perché ha detto credo, ritengo che sia il signor Franco, anche se mi sembra difficile, perché non mi sembra tipo, disse proprio, scusatemi le parole, che si fa fottere da un fotografo normale, perché era uno molto attento a non passeggiare davanti ai bancomat, sapeva tutte le telecamere, era uno molto preparato in quella che doveva essere, diciamo, la sua figura discreta, e sicuramente quella di non essere evidenziata magari da qualche soggetto non amico. Un fatto invece più preciso e più circostanziato, che forse per lei rappresentò il momento in cui si rese conto anche di quali fossero le amicizie, i rapporti e anche il potere di suo padre su tutte e due le sponde, quella diciamo presentabile e quella non presentabile, è un episodio che lei racconta all'inizio del suo libro, che è l'episodio del barbiere. Laddove al barbiere, lì dal signor Lo Picco, il barbiere di fronte casa, io faccio vedere i 20 kit a mio padre del giornale Epoca, vedo come lui cambia in volto, non ha dubbi, cioè le sue espressioni, proprio la mimica facciale, assume un atteggiamento già abbastanza, lui molto cupo e serioso, in quel momento ancora più scuro e duro, mi guarda negli occhi e mi dice ricordati che da queste cose non ti posso salvare neanche io. Laddove avevo mostrato la figura dell'alias signor Lo Verde, quella che era il riconoscimento grazie all'aiuto dell'FBI rifatto al computer dell'uno dei più grossi latitanti, uno dei più ricercati in tutto il mondo, Bernardo Provenzano, mi pare cambia in volto, cambia espressione, usa delle parole durissime nei miei confronti. Storielle. Storiacce. Per lui inizialmente erano solo il signor Franco e il signor Lo Verde, così li aveva conosciuti e visti tante volte per casa con suo padre. Erano un misterioso uomo dei servizi segreti, messo accanto a Vito Ciancimino dal Viminale, come ha detto nella prima parte il figlio, e l'altro il capo dei capi di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano. Di entrambi Massimo Ciancimino capì la vera identità da alcuni giornali, come racconta nel suo libro Don Vito, e Don Vito il padre lo avvertì, da questi gli disse: non posso aiutarti nemmeno io.